Italia in controluce. Secondo appuntamento con la cronaca italiana, Italia in controluce, racconto la narrazione di storie del nostro paese. Benvenuti da Daniele Biacchessi. Gli impianti eolici in Sardegna sono al centro di una grande inchiesta giudiziaria. Secondo i magistrati e gli investigatori si profila un intreccio affaristico tra politica e imprenditoria sarda. Stefano Totoro. La nomina di Ignazio Farris a direttore dell'ARPAS, azienda regionale sarda per la protezione dell'ambiente, nasconderebbe un comitato d'affari che avrebbe come obiettivo la gestione degli appalti per la realizzazione degli impianti eolici. È da questa ipotesi accusatoria della Procura di Roma che sulle pale eoliche della Sardegna ha iniziato a soffiare il vento dell'inchiesta. Il nuovo affare, l'energia alternativa, rivela ancora, stando alle prime fasi del lavoro dei magistrati, un presunto intreccio fra politica e gli imprenditori del vento per ottenere l'autorizzazione ad installare impianti. L'eolico in Sardegna da anni è al centro dell'attenzione politica. Facciamo un passo indietro con Renato Soru, ex governatore sardo centrosinistra. Nel periodo della giunta di centrodestra fino a giugno del 2004 ci fu il vero assalto alle eoliche. Si erano presentati progetti per quasi 3.000 megawatt, oltre 2.000 torri eoliche. In quel periodo sono stati autorizzati tutti i parchi eolici che sono stati realizzati in Sardegna fino adesso. Nel giugno del 2004 ci fu un cambiamento. Io stesso avevo parlato proprio della nuova dell'assalto all'eolico selvaggio, per cui appena arrivati alla guida della Sardegna facciamo due cose. Una, la famosa legge salvacoste, e quindi avevamo subito nei primi mesi della legislatura bloccato le eoliche. Poi solo successivamente nel 2007 è stato fatto il piano energetico ambientale che ha definito la quantità di eolico che può essere realizzata in Sardegna, definito dove l'eolico può essere realizzato, e cioè non nella cresta dei monti ma ad esempio in adiacenza alle zone industriali, nelle zone già compromesse dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Oltre a Ignazio Farris, nella lista degli indagati compaiono i nomi di Ugo Cappellacci, attuale presidente della regione del centrodestra, Denis Verdini, uno dei tre coordinatori nazionali del PDL, Flavio Carboni, uomo d'affari già comparso nelle cronache giudiziarie dentro i processi della bancarotta del Banco Ambrosiano e dell'omicidio di Roberto Calvi. E poi ancora un costruttore, Arcangelo Martino, Pinello Cossu, consigliere provinciale di Iglesias, Franco Piga, ex commissario dell'autorità d'ambito per la gestione idrica in Sardegna. Il nome del governatore Cappellacci è contenuto in diverse intercettazioni telefoniche fra Carboni, Verdini e altri personaggi. Il principale interesse di Flavio Carboni sarebbe stata la nomina di Farris a direttore dell'ARPAS, di competenza della giunta regionale. Carboni avrebbe caldeggiato a Denis Verdini il nome di Farris e la nomina poi c'è stata. Ma facciamo ancora un passo indietro. Cos'è successo una volta finita l'era Soru alla regolamentazione sull'eolico? Renato Soru. Prima hanno cancellato le regole, hanno cancellato la legge, e in quel periodo si è aperta la possibilità di concedere autorizzazioni così utilizzando anche dei rapporti privilegiati, e si è anche incautamente incorsi nella possibilità di subire delle pressioni pericolose. Quando sono emerse le prime intercettazioni telefoniche in cui Verdini parla con Cappellacci, Cappellacci parla con altri imprenditori eccetera, e si è capito che forse tutto quello che si stava tramando poteva essere registrato, allora in maniera un po' confusa e veloce si è fatta una delibera di giunta, non una nuova legge, una semplice delibera di giunta che annuncia che si vorrà bloccare tutto con una legge che dovrebbe istituire un'agenzia regionale. Ma quella roba lì è totalmente contraddittorio rispetto a tutte le azioni che sono state fatte nel passato, è contraddittorio rispetto a tutto quello che era stato detto nel passato, perché Cappellacci e la destra avevano accusato me di avere bloccato l'eolico e loro erano per la liberalizzazione, tant'è che stavano liberalizzando. E oggi invece dicono che loro hanno bloccato e che sono portatori dell'idea di bloccare l'eolico. Il coinvolgimento del governatore Cappellacci nell'inchiesta sarebbe legato anche alla creazione di fondi neri attraverso il versamento di somme da parte di aziende interessate al business dell'eolico al credito cooperativo fiorentino presieduto da Denis Verdini. Dal mio punto di vista è inspiegabile, io credo che Verdini, l'ultima cosa che ho il segretario di un qualunque partito, l'ultima cosa che deve fare è indicare ai presidenti delle regioni il nome dei direttori generali degli enti o delle agenzie regionali. Da tanto tempo che diciamo che la politica dovrebbe fare il suo mestiere e lasciare e fare in modo che le amministrazioni possano premiare le competenze. Qui invece siamo ai familismi in una maniera veramente indecente. L'inchiesta va avanti e i magistrati mantengono il massimo riservo. Denis Verdini si dice totalmente estraneo alla vicenda. Il governatore Ugo Cappellacci, prima di essere indagato, era molto propenso a chiarire la situazione, anche ai nostri microfoni. Dopo, non ha più voluto rilasciare interviste. Come lui, anche l'assessore all'urbanistica della regione, non coinvolto nella vicenda, Gabriele Asunis. In ogni caso, in una dichiarazione, il governatore aveva affermato: ogni impianto presente sul territorio è stato realizzato grazie ad autorizzazioni concesse dalla giunta precedente, quella di Soru appunto, per questo abbiamo contattato l'ex presidente. Sull'eolico, ha poi aggiunto il governatore, le posizioni della giunta sono chiarissime: no deciso alle pale offshore, gestione diretta da parte della regione degli impianti a terra. Il 1 giugno Cappellacci riferirà in consiglio regionale. Italia in controluce. Ma esiste su scala nazionale un'infiltrazione mafiosa nell'affare dell'eolico? Il racconto di Cristina Carpinelli. La Danimarca e la Germania, con le loro oltre 15.000 torri, sono i paesi di punta nel mondo per l'eolico. C'è anche il Portogallo, il Belgio, la Svizzera, la Spagna, l'Olanda e la Grecia. E l'Italia, con l'eolico, quanta energia produce? E quanto e perché questa energia alternativa è così controversa e criticata? Francesco Bertolini, docente di politica ambientale all'Università Bocconi di Milano. L'industria globale dell'eolico nel 2009 è cresciuta del 31%, quindi è stato fatto un balzo significativo in termini proprio di sviluppo della tecnologia e del mercato dell'eolico. Di fronte a questo scenario globale, anche l'Italia non si discosta da questa crescita internazionale. In Italia la quantità prodotta dall'eolico corrisponde al consumo domestico di circa 6 milioni e mezzo di persone. Nel momento in cui il settore delle energie rinnovabili e nello specifico dell'eolico comincia ad essere un settore importante da un punto di vista economico, inevitabilmente si muovono anche gli interessi malavitosi. Gli interessi malavitosi legati all'installazione dei parchi eolici, imprese per il movimento terra, imprese di produzione, imprese che operano sul territorio e che hanno il controllo del territorio. È un problema di riportare un controllo, una trasparenza negli appalti pubblici, nelle regole che ci consenta di associare un'energia pulita anche a un'economia pulita. È vero dunque che l'eolico è risorsa, ma quando funziona? Detto così sembra una ridondante sottolineatura, ma basta andare a farsi un giro nella valle di Mazara in Sicilia per vedere che non c'è una pala che funzioni e che produca energia. Uno dei primi politici a denunciare questa situazione fu Vittorio Sgarbi, che sull'argomento è intervenuto innumerevoli volte, come sentirete ora. E la mafia non soltanto trae tutti i suoi benefici da queste pale, per cui ognuna viene montata non perché c'è una grande passione per l'energia pulita, ma perché la comunità europea paga 1,5 milioni di euro per ognuna. Quindi ci sono soldi da pagare tutti. E infatti, dopo le mie denunce, hanno catturato 13 persone che erano legate ai clan mafiosi. È dunque così la storia? C'è la mafia dietro l'eolico e in che misura? E perché le pale di Mazara, di Salemi e di altre zone siciliane non vanno? Secondo Sgarbi, come avete sentito, il proliferare di questi parchi al sud è legato al meccanismo degli incentivi. Secondo un rapporto dell'Autorità dell'Energia nel 2009, il costo totale per la spinta alle fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico avrebbe superato i 2 miliardi di euro, 3 miliardi quest'anno. Gli incentivi sono stati introdotti nel 99 con la durata di 8 anni, poi portati da 12 a 15 anni. C'è un meccanismo complesso di licenze, una carenza di chiarezza nelle leggi regionali, che definisce di conseguenza delle voragini nell'individuazione delle responsabilità e che porta poi la mafia a insinuarsi con estrema facilità in questo affare. Il risultato è che l'installazione, la manutenzione e il funzionamento di un parco eolico in Italia costa in media 4 volte di più che in Germania e Danimarca. Perché? Secondo l'ANEV, l'Associazione Nazionale dell'Energia Eolica, tutti questi dati, incentivi compresi, sono fasulli. Ce lo ha detto il segretario generale dell'associazione Simone Togni in un'intervista particolarmente concitata. Continua a girare sempre la stessa notizia falsa, sempre sempre la stessa e sempre dalle stesse persone. A che cosa si sta riferendo? Il discorso sugli incentivi che come è noto non esistono più e dei quali invece si continua a fare grande chiacchiera. Ma allora perché non partono per esempio a Mazara del Vallo questi impianti eolici? Sto dicendo che uno mette i soldi, ci mette un tot di tempo a realizzare l'impianto, dopodiché deve attendere che venga collegato alla rete. Certo non è Sgarbi la fonte delle tesi mi scusi, io le faccio questa domanda. Allora, ci sono state delle inchieste della magistratura siciliana, sì. Più inchieste che hanno portato poi a mettere in luce, sono state anche incarcerati degli imprenditori dei politici locali. E vede che lei sbaglia ancora una volta, perché quindi la mafia sull'eolico secondo lei non c'è mai stata in Sicilia, cioè non ha interesse per i movimenti a terra, non ha interessi allora, su... Pacificamente ci possono essere e questa è la cosa sulla quale l'associazione è prima e sempre e comunque abbiamo dei protocolli di legalità, lo dice, perché se uno prendesse soldi dalla comunità europea per mettere gli impianti che poi non girano avrebbe ragione lei, perché uno dice allora con quei soldi io pago le opere civili eventualmente con queste infiltrazioni e ce n'è un beneficio, ma se io per fare un impianto eolico che costa, facciamo un esempio, 100 milioni di euro, un impianto medio, e tiro fuori di tasca mia 100 milioni di euro che per rilanciare devo far produrre l'impianto per 15 anni energia elettrica, e con questi soldi che io ho anticipato non li dirò indietro, perché l'impianto non viene lanciato alla rete, perché come si sostiene in questa tesi io tanti soldi l'ho già presi, mentre non è vero, li ho già presi, perché come le dico uno li dirà nei 15 anni successivi di produzione. Voglio capire che bella operazione ho fatto. Che bella operazione ha fatto dunque chi ha investito nell'eolico in Italia? La domanda è molto complessa e sarà il caso di rimandare la risposta ad un'altra puntata. Italia in controluce, le puntate www.radio24.it, usate Facebook, Radio 24 Italia in controluce, il nostro gruppo, la mail controluce@radio24.it. Domani alle 6:30 una nuova edizione su Radio 24.